già arrivi in office, come problema. Qualcuno di lì lo sento più forte, ma forse c'è qualche watt in più. Non ho problemi. Mi arriva forte, mi arriva, capito? Nevada qua mi arriva forte, mi arriva. Santiago 8, 8 9, vigilante, capo, mi arriva molto bene. Capo, già stai arrivando già, a voglia. E un 747 in Kiwi, se non ti arrivi di nuovo, no, Gassassari. Capa. Ti devo lasciare, ok, mi ha fatto piacere oggi. Devo lasciare che io vado a fare le mie faccende, dai. Se ci sentiamo dopo, ok? Ciao oggi. Che è? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? E che sei oggi? Buonasera. Ti vedo sempre più basso, non ho capito perché. Io sono sempre lo stesso. Ho controllato la cassa azionaria poco fa per vedere se tutto a posto. A posto. No, come faccio a dire se sei lo stesso? Sei più basso. Da quando sei... ecco perché, prima usavi il minereto, sempre per caso se te lo sento basso, ci vedi dove vinti, ma si dove tiri. Va bene, già è sufficiente. Vabbè, se ci vio più forte prima. Vabbè, Tony, è sufficiente per farmi sentire abbastanza. È sudato, non è uso. Vabbè, non ce ne si può. Tombare, no. Non ero voglia, dai. Io devo modificare il mobile qua, che non è più friggio. Non c'è più altro come farlo. E modificalo. Sì, devo smontarlo tutto, fino a una certa altezza. Poi lo metto giù. Sono passagrati, patendo. Devo lavorare, poi fare i tagli per riesco le baracchine, eccetera. Sì, ma ancora, ho un po' di dolore, non posso farlo ancora. Io appena che stai bene, lo fai. Ok. Non ho capito che devo di nuovo ripartire e farmi fare di nuovo. E che mi raggiungi sul sesso, va? No, no, c'ho il canale più stretto e tragetto da prima con... che ha fatto quei tempi e che comprimeva sul nervo sciatico. Adesso quel dolore è diverso, non ce l'ho più, però sono entrati altri dolori, capito? E quindi ho portato la risonanza ai luoghi, poi mi ha operato, ci ho visto il vero, e mi ha detto prova a fare questa terapia qui, poi da caso che chiamo il 23, un attimo, secondo con me, pensare su e si operiamo. E mi metto le placche al titanio con le viste come hanno fatto a mano vera. E me lo trovo di là subito. No, perché lui infatti ha detto, me lo potevo fare prima, le metto. E allora io pensavo che era solo quello lì che comprimeva, allora il nervo sciatico ci passava tutto. Invece a quanto pare ho operato il numero lì e lui si è suonato a calzino e si sono incasinati e toccano uno con l'altro e si è fatto via quello. E si è chiamato anche il tuo. E ho toccato i rabbri, mamma mia. Ecco ci vuol fare. Pazzesco. Cosa sì, che io voglio stare bene, non l'avevo preso. Se mi ha chiamato il coordinatore, dice, ma c'è peggiore, si deve pagare, guarda, normale, forse ti riapro, non ci credo. Ma stai scherzando o te parlo seriamente? No, te parlo seriamente. Ci sono gente che, boh, era meglio che lo preparavo. Allora, fai così. Speriamo che la prossima volta andrà meglio. Mamma mia, è proprio vero, quando c'entra chi si pidare da voi è un casinicinne. Ma in qualche modo bisogna risolverlo. Beh, io sarebbe andato a stare tranquillo mia tu. No, con il chiusore, staccare già, metto niente. Cappa, cosa vuoi qua? Purtroppo è successo anche questo. Pensavo che era tutto a posto invece. Ma Manuele come sta? Sta bene? Manuele, tranquillo, proprio. Beh, lui le ha giustamente le ha messo le placche, capito? Ma io sto fatto qua, da 6 anni fa. All'operazione volevo tagliarmi l'osso sotto, proprio piena, e mettere la placca di titanio. E la città pulisce il capo la placca. Infatti questo dottore qua, che è molto più bravo, questo chirurgo, mi ha detto no, quel lavoro non si fa assolutamente, se lo facevano 50 anni fa. Se ti metto qua delle placche e ti era proprio qui fino al canale e siete partito. E non si dice niente, l'unica operazione era questa qua da fare. Ecco, se immaginavo che oggi me l'avrei già fatto. Vabbè, aspetta. Un capo del vaghi del travaglio primitivo ga. Il cugino ha fatto la stessa cosa, uguale, l'hai tagliato un pezzo d'osso, la pacca di Italia, sempre a dolore, è andato a Cagliari, peggio di prima, dopo tanto anni a dolore, dolore, dolore, è andato a Monza, non ce l'ha fatta più. E a Monza gli hanno detto, ma chi è che l'ha fatto la cosa? Io pensassi a Cagliari, questo è già 50 anni fa. E da lì a Monza l'hanno aggiustato, perché il cugino è tranquillo. Ah, meno male, là. Allora fino a punto della forza, Buruviccio, purtroppo, sape che da poco ne uscive, invece ci vuole qualcosa di più. E vabbè, e cosa vuoi va? Sono cose che succedono. E beh, se cugino avrebbe chiuso le forze, poveraccio, già. La testa c'è riuscito per una. Allora io 2 volte, poi la sapevo già dall'inizio che aveva il canale stretto, ma l'ha già detto, capito? Malformazione della nascita. Ho detto sì, ma io finta Sierra Ivano ho venuto all'università quasi 60 anni e mi ha detto, sì, infatti, da 60 anni poi le ossa si consumano e si è arrivato lo che sei tu. Purtroppo può capitare a tutti, può capitare, capito Tony, può capitare a tutti che... Molte persone, dico, potrebbe capitare che noi, io pure, non lo so, magari c'è più giovane, ma c'è 36 anni, magari fa 60 anni potrebbe capitare anche a me, cosa ne so io? Spero di no, perché sono cose atroci, però non lo sai mai. Antonio, purtroppo queste cose succedono a chi fa forse nella vita durante lavorativa, io ne ho fatto tanti, tu le stai facendo, occhio, non dico altro. Allora, se il giovane non date una guardata. Lo so, infatti, ecco giù, non so se lo conosci, Antonio Manca, che è andato in pensione, quello lavorava a Bitorozzi, è poverino, pure è dove, come te ne accusa che cosa a me. Infatti se lo vedi cammina, così cammina un poco, ma pure a regabomboli. Adesso finalmente ce l'ha fatta arrivare in pensione. Tu guarda un bancario che lavora in banca, o un commesso, non va nulla, poi si è pure grasso, nulla, no, perché lui non comprime da pilotare più il peso che ha, diciamo, del corpo, più portare come la pompola, come altre cose, capito? I motori di autoclave che sono pesanti, insomma arriva a un certo punto che il corpo umano non ce la fa più. Quindi comincia pure ad andare che il tempo si consuma un pochettino e si crea tutti i problemi. Addirittura Manuele aveva anche il nostro cartellino consumato. A Baida vedi, tu faceva posizione Marte, ma il bambino pensa solo. Quindi questo lavoro durante tutti gli anni lavorativi e arrivi della vecchiaia, ci si arriva a un punto che il corpo umano si abbassa, si dà i primi segnali, quindi deve stare attento durante la circoncisione, ma adesso la vecchia punta non la prepa. Lo so. E cosa butti in mano? La pipina se l'avessi saputo, ma dovevi anche mangiare me, a fare certi lavori. Anche a me non è che mi vado a fare i piaceri, però devo essere consapevole che devo buttare di là a casa in qualche maniera. E quindi ho mio pomimi, e cosa faccio? E purtroppo la scelta è quella, eh. Sì, ma tu sei ancora giovane qui. Se ti trovo altro mestiere che sia leggermente più leggero, quindi ancora per te, capito? Io niente, faccio l'elettricista, però giustamente nel proprio intervento abbiamo messo a fare l'elettricista anche l'idrico. E nell'idrico giustamente, nell'anticidio, ci sono i motori che ruotano tanto, che c'è poco. E comincio a vedere i due motori, il detergista che comincia a pesare 100 km, 130 km. E a prendere i due smontarli, fatica a smontare che sono pesati e grossi, salendo su perché sono sempre in fascio i picchiacchi di motori, e metto le macchie, portando a aggiustare, poi era ritirato, riprocedono, giro di nuovo giù, agganciato, eccetera, sollevare tutto quanto la tubazione dove va agganciato, e devi fare forza, e la china del gente è utile, ma non è detto, quindi le anni insomma, me ne faccia da lì. Sicuramente non hai fatto solo questo, non hai fatto pure altre travaglie, non hai fatto solo quel lavoro lì, no. E purtroppo è quello, se lo vuoi fare così, no. Non avresti avuto neanche la pensione, cioè, tra poco vai in pensione, non ci avresti avuto manco la pensione. Cosa deve fare? Io se trovo più là, vediamo. Se c'è un po' qualche travaglio più leggero, me lo posso fare cosa. Dare tanti anni così ne faccio la fine dei miei colleghi, ne posso alla fine di gozo. Allora lo conosci, Paracocco, che lavorava a Pizzolotti lo stesso, chi ci andava a forza di punture, mi? Roberto. Tu non ricordo di conoscerlo. E però c'è questo, io sì, ho fatto 50 punture tra tutto, le prime punture è ok. Poi dopo una settimana torno da lui. Allora mi ha fatto una cura all'ospedale e dopo due anni non ho finito per ripetere niente, poi mi è venuto di nuovo i dolori. Tu pensa tu, che io la notte, quando mi coricavo, stavamo tranquillo, quando andavo a alzarmi, andavo a farmi caffè, e come che mi stavo entrando un trapano nell'osso, a sticchirri, mi durava un minuto e mezzo. Sembrava un'eternità, non lo avevo nessuno quello che ho passato io, sia andavo al freddo che a Genova. Allora c'è i dolori, la carità. Lascia perdere che adesso quei dolori non ce l'ho meno male, per linea, ma tu pensi che linea si era calcificata nelle rocciate qua, me l'hai raffigliata. Adesso mi allago nel canale, la prossima volta e poi sono tranquillo, posso dire, ah, avanti che posso farmi chilometri a piedi a cadere la battallata. Non vedo l'ora, guarda. Dai, piano piano, si dice, piano piano ci arriverà anche a quello, là. Ci vuole un po' di pazienza. Ehi, calma. Dai, parliamo di altre cose più belle, invece parlare di... C'è una moglie, a tu, ti mandiamo un bel paninozzo con la Nutella. No. A me non piace. No, ti piace. Ma chi era? Se vuoi, ma un vero terreno non ce n'è. Ti giuro, io c'è una cosa che non mangio proprio la Nutella. Lo sa dopo un po' di volte, ma non è per me. Se mi fate, dimmi, di chi sul cioccolato che fate in pasticceria, allora andiamo a raccoglio. No, io ogni tanto devo il cioccolato fondente, qualche pezzettino la sera non mangiamo. E poi tu passa perché ho anche diabete, quindi ho fatto la fisica, maestro, il dottore. E chi te lo dice? Mangiare, dico perché il cioccolato è mangiato. Allora, io me lo sono piano. In quel dia volevo assaggiarlo per il commento che non c'è il zucchero e c'è tutto il segreto. Non compratelo più, vai. Quello lì è potente. Guarda, non ci crederai, ma quando ti ho detto quando c'è cioccolato qua io non ne tocco. Non ne mangio, manco una non ne mangio. Ma proprio così non... Non immagino di chi ci gode, ma non mi dicare i baci, mamma mia. Le pazze fatte la pasticceria, chi ci già mi piace, nemmeno? Tu pensa che anni fa che io non c'avevo niente, ero più tranquillo, ho comprato un palazzo di 5 kg di Nutella. Poi l'ho già dato i migliori, dopo un anno me l'ho tornata, non ce la facevo a mangiare, me lo continuo a mangiare io, è tipo che la buona. Niente, ultimamente stesso ho cominciato con un palazzo di 1 kg di Nutella. Sigillata, non le tocco, poi le do per più due, ma no papà perché te la compro. Anche mi aveva la gana, poi come dopo la mangio mi dimentico. E poi te la do loro. No, non ne mangio io, no, proprio zero, no. Qui, quando io ero a Tirozzi, io e qualcuno fa zia la bassi mia, fa zia, quando era a casa di babbo. Non ducava né cioccolati né caramelli e né niente. Ma è tu? No, a me cioccolato penso che sia un io ho anche la voglia di cioccolato qui. Però no, cioè, purtroppo niente, con diametro non posso mangiare nessuno niente. Ho cioè, una voglia di assaggiarlo spalinato con la rossella, mi piace troppo, però non è tutto più non posso mangiare. E mi sono la voglia a fare. Ne ho approfittato prima, che stavo bene, grazie a Dio. Vabbè. Ogni cosa è differente, troppo storpia. E quindi, adesso piano piano. Cappa, guarda, se mi parli di baci, mi parli di torte, di tutte queste cose qua, allora ci andiamo d'accordo, ma Nutella, roba così, cioccolati, no? Non li mangio. No, te l'ho detto, no. Qualche caramella, ma neanche tanto, no. Non li zecco di chi si goge. Ma se mi fa vedere basta la crema, cornetta alla crema, al cioccolato in pasticceria, non me ne va a vedere che me li mangio, Vabbè, i cornetti non sono a marmellata, al cioccolato. Se mi piace. E c'è lo stesso cioccolato che lì, tu? Sì, se me lo fai col cioccolato della pasticceria, che ha un diverso sapore, lo mangio. Ma se me lo fai con la Nutella, non li mangio. Oh yeah. Allora io da ragazzo ho lavorato da un pasticcere che si chiamava Caso. Aveva il laboratorio su Villa Marpola, quasi via Carmelo. Ero ragazzino, però ero vini, nella macchinetta, papà, papà, mi aggredito. Non c'è il cioccolato, è proprio adesso si usava un pepe, un vini. Andava a mangiare ci ha giocato tre facce, che tu che lavora? Mamma mia! Aspetta 2 secondi Tony che scendo, un attimino giù a prenderci una Sara. Cappa, sono qua. Ehi, eccomi qua. E mi sono però girato nel letto. Sei girato dal letto. No, io ti stavo dicendo. A me piacciono molto. Quella roba lì. Quando ero più ragazzino ne mangiavo di più di dolci, poi l'ho smesso un pochettino. Cioè, la mattina mi mangiavo 4 baci, ma poi dopo un po' di tempo ho cominciato a smetterla perché mi stavo facendo male. E poi per ingrassare, dai. Cos'è sempre il movimento, non ingrasso mai a chi su Gumagnendi e tata, un peso vai. Cioè lo digerisco su, lo digerivo subito perché allora va un poco di manco, allora già la manzana era 1000. Ma è voi che portate come per la sera le bombe e cioè, tutte le tre macchine da strada ci avete? Cappa! Ma la chiro non ne mettete là? No. Non era meglio che dalla centrale, una tenna lì e una nella macchina, a dire via, che la trasfera, vai in tempesta e poi con la bocca. Ma avrei passato via WhatsApp. Ma non è mica colpa la mia. No, perché WhatsApp ti rimane. quindi se magari uno sta guidando e cose, poi prendete, lo segni, capito? Ma siete due, uno guida l'altro via WhatsApp, oppure il baracchino, dice sì, ok. Oddio, sei cattivo, capita, anziché tornare di nuovo cosa, poi c'è il benzino. Tornate sono in sede quando avete tutte le botte scariche, avete caricato le bombe vuote e avete caricato le botte insieme. Ma io già ne ho qualche una in più, ma la tengo, capito? Oh, certo. Vabbè. E non ho pure spalla, ma ho pure di cazzo, non sarei quanto piano se stavo sotto io, che giù. E cosa fai? Non ve la arrecchi? Niente, mangia, sì, ce ne procura a me. Sì. Buonasera, buonasera anche a lei, chi è? Sono io. Io chi? Io. Ah, Eugenio, sì, buonasera. Ecco, sono in compagnia di Torino, sono. Non so se ti ascolta. È da Porto Torres. Guardami alto, niente, zero. Ha detto Tonino mi ascolti, ha detto. No, c'ho il QRM alto qua, 5-6. E tu lo ascolti? Capo, ha detto che lui già ti ascolta. E io so anche zona negativa per Porto Torres, se ho tu. Allora un bel casino, Ma no, da lì dovresti arrivare. E devo per la penna. Devo mettere anche la Mantova con 8 metri di palo, però, ripeto, non lo posso fare ancora per essere male, capito? Quando per meglio lo faccio. Ma poi, come ascolti? Allora, il segnale arriva, la radio no, il segnale va anche fuori, perché è l'ufficio, ma la radio non si può, non si può sentire. Capo, ti ha detto che il segnale arriva, Santiago 5 da lui, che lui ti ascolta, ha detto comunque. Sei prova a cambiare il microfono. Capo, prova a fare un po' di fatti del baracchino. Ehi, dimmi. No, lui non ti ascolta, mi ha detto. No, non riesce ad ascoltarti. Ma qualcosa tu lo ascolti, è che lui non ti riceve, capito? Cioè, lui proprio non riesce a cavarti in vola, mi ha detto. Aspetta. Adesso mi ascolti, Eugenio? È impossibile, adesso lo sento più. È impossibile che la radio non mi ascolta con questo microfono. Capa. Ha detto che è impossibile che non ascolti. È impossibile, con un microfono, con questo qua è impossibile, mi ascoltano tutti. No, non lo sento più, guarda il nastro, niente. E ha detto che adesso gli sei sparito pure a lui, ha detto. Perché ha difficoltà a sentirti. No, poi sono negativo con la zona, capito? Quindi, forse quando solleverò l'antenna, per adesso. È stato sempre negativo, sempre. No, a me no, non è negativo, non è positivissimo, però ascolto tutti, dai. Io laboratorio se non ho problemi. Io senti a Gorgi così di correre, mi hai fatto il conto. Lui dovrebbe arrivare molto meno di quel segnale, ecco perché non lo ricevo, sento tutto. Ho tolto anche l'altro di su, ma però niente, non lo ascolto. Prima è arrivato Pio Pio, poi è sparito. Capo, mi ha detto che non ti sente. Capo, ti saluta, ha detto, noi. Capo, ciao, allora oggi se mi sta ascoltando, ma ripeto, mi dispiace, non ti sento. Non so che se anche tu che stai uscendo in basso, o che zona sia, o sei in macchina, o sei in un punto che a me è negativo. O quando metterò l'antenna sopra, qua se ti ascolterò. Tutto qua. Capo, no, già lo sento. Non ho problemi. soprattutto gli altri sono ancora più forti, sento, di lui. E la radio mia è forte, via tu. Antonio. Ehi, stavo parlando, stavo ascoltando cosa stavo dicendo. Ehi, avanti. Purtroppo è una zona che è negativa, capito? Non so se lo conosci, lui è verso la zona di San Camillo e per quella parte lì non è tanto favorevole. Non sono a Sassari, forse Sassari, sono a pezzo per Sassari, lui. Adesso l'ho sentito più Pio. Guarda che a San Camillo non c'è nessuno Cimici, sono solo io. Capa, ti ha detto che Cimici è solo lui a San Camillo. Non è a San Camillo. Vicino alla trappa ci sono solo io. Dice che c'è solo lui lì per la zona. Non lo so chi sia, perché qui io non l'ho mai sentito la verità. Non lo so. La verità non lo so. Ma che io sento mai una San Camillo. Ma verrebbe fotoscala come mio, mai sentito. Capo, ho detto che Donino non l'ha mai sentito. Capito? Nemmeno la verità neanche io, la verità. Ciao ciao, ci sentiamo. Ciao ciao. Se c'era uno quanto, mio mo fa due scala mi arrivava, sto scherzando. E sono vicino alla statua. E ci sono già un bel po' qua. Non so, intendeva lui. Non sarebbe arrivato forte pure a me. Ma direi che bene sto facendo, sì. Già va bene. Con questo microfono. Anche il Babaluzzi mi ascolta, ragazzi. Lo so. Adesso che così. Ma è forte già. Calcio, caspita. Pure con chi sono e Masedono. Questo non tarne su presidiriti, capito? Uno dei migliori tarne che ne ho fatto. Siete innamorato con questo microfono? Scabba. Io quando ho provato questo mi sono innamorato di questo qua. Lo accetto. Io c'ho l'MB più 4 e l'MC60. E non vuoi mica metterlo con mio, no? L'MC60? Hai fatto un bruno che non è che la stessa applicazione, dai. Informati, Antonio. Io lo so perché ho sentito già una persona da casa mia parlare e io ho un'altra attrazione a sentirla, capito? Ma 10:40 è un bel forte in radio, è un bel, un bel, un bel. Guarda che l'ho abbassato, mesi, no guai. Ma anch'io l'ho abbassato, me. Oh, strappa, c'è la cosa. Se io lo metto alto è un casino. Ma non deve fare casino al microfono, capito? A me siete tutto quello che faccio. Questo è un signor microfono, ce ne sono pochi in circolazione di questi, capito? E molta gente è anche un po' gelosa di questo microfono. Capo, no, io sono curioso di nessuno, ma so che cosa è. Capito che ti voglio dire. No, questo qua l'abbiamo controllato, è originale, no. Non è roba contraffatta. guarda questo microfono, che con il Saturneco è una bomba, si sposa bene. L'ho avuto anche oltre 25 anni fa, la stessa cosa, però col carnet più 3 grigio da tavolo, ed ero forte lo stesso, e questo è leggermente più forte, perché sono così diritti, capito? E non lo cambio con nessuno, quindi mi sono informato, mi sono commentato, quindi posso dire che ho un signor microfono, punto. Guarda, ho avuto anche il coso, io ho avuto, che era una cannonata, il carne più 3B, quanto pompava quella cosa. Anto, ce l'ho anche, l'ho regalato, pensa, mi sono tenuto questo che è più forte. Comunque, quello che ci avevamo noi con il supercar spaccava di brutto, cioè, non so che cosa ci avesse di eccezionale, ma col microfono andava un bel. Ma io non posso lamentare, ho un signor microfono, mi piace e me lo tengo. E Gianni, dopo lui lo vuole lui, sta sempre innamorando, ci sono trovato, vabbè, Antonio, quello me lo vende, no, non si può dare, capito? Persone che mi hanno sentito mi hanno guardato, ma un bene. Chi la pompava già, chi la pompa già è buono, non è che non si può dire niente, è buono sì. Allora c'ho anche l'MB più 4, c'ho anche l'MB più 4 che funziona che è una meraviglia, non è male come microfono. Comunque dipende, io ho visto dei microfoni, diciamo, secondo che Marachino lo metti, ti date un bel. Secondo che Marachino non lo accetta ben volentieri e non è che poppa così molto. Questo io lo sapevo già con Galaxy, ero la fine al mondo, è così, grazie a Dio. Avevo il carne più 3 leader, quello da tavolo, grigio, uscivo stesso che era abbastanza forte. Quando mi è capitato questo, che me l'hanno regalato, ho visto la differenza e ho detto no, quello l'ho rovato via, mi sono tenuto questo. Poi il capo, è fatto bene. No, ma poi dipende, secondo qui la radio che lo tratti non andrà sempre bene, secondo la radio che lo usi va alla grande, dipende anche quello, perché avevo quel darmi più 3 col superstar, era una cannonata, era, spingeva il cosa amara, ma forse baromi. E io ho avuto anche il Samurai che era un signor barattino, stessi canali di questo, veicolare, bello, e vabbè. Sono passati molti anni, non so neanche che ti abbia fatto. Tanto mi devo sentire un attimino, che devo fare una bassa. Ok, a dopo.